cerco poesie della mia età e non ne vedo ritratte. Cerco sulla mia strada orme intatte. Insieme in due sarei unico, l'anima quasi perfetta, inalterata l'ombra sulla spiaggia. Ancora soli e invisibili, tutti i ritagli di vita, intramontata voglia tra le dita. Sento.